Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera. Oggi parliamo di due libri che parlano di economia, ma parlano soprattutto del mondo in cui l'economia è un dato fondamentale, ma in cui anche lo scenario in cui l'economia si sviluppa come realtà geografica, e vedremo come, ma anche come realtà ideologica, potremmo dire, è importante per capire chi siamo e dove andiamo. Il primo libro di cui parliamo stasera è di Federico Fubini. Buonasera Federico. Buonasera. Federico Fubini è un collega del Corriere della Sera, inviato, e ha scritto Destini di frontiera, da Vladivostok a Khartoum, un viaggio in 9 storie. Il secondo libro è di Walter Mariotti. Buonasera Walter. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Walter Mariotti, anche lui è un collega del Sole 24 Ore, responsabile del supplemento il mensile destinato al pubblico soprattutto maschile, e ha scritto Un mondo alla rovescia, alfabeto del post-capitalismo. Anche questo è in fondo un viaggio in questa nostra realtà. Ma cominciamo dal viaggio reale, il viaggio di Federico Fubini, un viaggio dall'Estremo Oriente all'Occidente, passando attraverso alcuni luoghi importanti, partendo da Vladivostok, andando in Vietnam, in Cambogia, in Birmania, Bangladesh, Emirati Arabi, Sudan, Albania. Che cosa unisce questo itinerario, Federico Fubini? Ma io quando sono partito avevo soprattutto una curiosità, vedere come quella che noi chiamiamo la globalizzazione, l'arrivo dei mercati dappertutto, l'espansione anche di potenze come la Cina, non solo potenze occidentali, cambia la vita di persone molto comuni in luoghi del mondo di cui spesso si parla poco, che noi potremmo definire la periferia, forse come il Vietnam, la Cambogia, lo stesso Sudan. Ecco, sono luoghi questi, appunto, il Vietnam, la Cambogia, che appaiono in qualche modo come arrivati all'ultimo momento alla modernità. Che tipo di modernità c'è in questi paesi? Credo che personalmente la cosa che mi ha colpito di più è vedere persone che in 20 o 30 anni della loro vita, questi sono paesi in cui l'età media spesso è molto bassa, 25 anni, 20 anni, hanno attraversato un tempo dell'evoluzione economica e tecnologica che noi abbiamo attraversato in forse 2 o 3 generazioni, e dunque sono persone anche da un certo punto di vista estremamente tradizionali e da un altro punto di vista capaci di affrontare il cambiamento molto meglio di noi. Ecco, sono comunque paesi che sono già all'interno della globalizzazione, qualcuno forse di più come il Vietnam, qualcuno forse meno come il Sudan. La cosa straordinaria che ho trovato del Vietnam sono soprattutto queste donne manager, lì c'è questa caratteristica che è anche un frutto della guerra, cioè che durante la guerra negli anni 70, negli anni 60 e 70 le donne hanno preso il controllo dell'economia e non lo hanno più abbandonato, e adesso stanno dimostrando questa capacità di modernizzarsi, e dunque tu incontri queste ex combattenti che hanno fatto la resistenza, che veramente sono state nelle trincee e che adesso sono delle fantastiche capitaliste, e proprio questo forse è l'aspetto più affascinante del Vietnam. Certo, non dappertutto ci sono dei vincenti della globalizzazione, per esempio non in Cambogia, dove globalizzazione significa soprattutto fondi sovrani, paesi del Golfo che arrivano, comprano sterminati territori, la cultura del riso, e li tolgono ai villaggi e alle persone che hanno sempre abitato su queste terre. Quindi sono paesi in cui ci sono ancora grandi differenze, disuguaglianze tra le varie fasce della popolazione. Ci sono enormi disuguaglianze sia economiche sia tecnologiche. Questo è proprio forse l'aspetto che colpisce di più, vedere come alcune persone restano in un mondo tradizionale mentre altre vanno avanti con differenze che per noi sarebbero forse anche di centinaia di anni, nello stesso territorio, nella stessa generazione e anche in fondo con gli stessi valori. Ed è questo che insomma mi colpiva e ho cercato di raccontare. Ecco, all'interno di questi viaggi che cosa ti ha sorpreso di più? Che cosa non ti aspettavi? Allora, la notizia positiva è forse quella che ho detto, cioè la capacità, soprattutto devo dire, delle donne in Asia di correre con la modernità. La notizia negativa è specifica. Mi aspettavo, quando sono stato in Bangladesh, sono voluto andare in un villaggio di questi colpiti dai cicloni del cambiamento climatico, e ho cercato di raccontare come Grameen Bank di Yunus, premio Nobel per la pace, aiuta queste persone. Quello che ho scoperto è che Grameen Bank in Bangladesh è detestata perché viene considerata quasi come una banca usuraia. Certo, l'unica banca che opera in questi villaggi, però a tassi di interesse e a condizioni che gli stessi abitanti dei villaggi considerano detestabili. Questo per me è stato, direi, sorprendente. Ho cercato di capire anche con Yunus, che naturalmente mi ha dato una versione diversa, però quello che ho capito è che per noi questa, che è un'icona della pace a livello globale, in Bangladesh è considerato un uomo d'affari e non è neanche tanto popolare, direi piuttosto al contrario. Questa è una sorpresa forse negativa rispetto all'immagine che abbiamo noi. Lasciamo un attimo Federico Fubini e i suoi destini di frontiera per affrontare il viaggio di Walter Mariotti con questo Alfabeto del post-capitalismo, un libro costruito proprio come un vocabolario, con tante parole, da America, anima, antipensiero, fino a topless, tradizione, universa, universis, cioè un modo per leggere l'attualità. Ma qual è l'ambizione di questo libro? Ma forse ambizione troppo, cioè l'aspirazione di questo libro, che poi nasce come spunto da una rubrica che tengo una volta alla settimana sul quotidiano, è quella di osservare come dopo il crunch, lo stile di vita del capitalismo cosiddetto maturo, soprattutto nei paesi dell'area avanzata dell'Occidente, sta mostrando dei segni che in qualche modo lo mettono in discussione nelle sue radici profonde, al punto tale che sulla scorta di alcuni studi, insomma, potremmo pensare anche di chiamare questo tempo, questa epoca in cui viviamo, post-capitalismo. Post-capitalismo perché, insomma, se l'ultima fase del capitalismo, secondo Baudrillard, era lo stadio frattale o virale del valore, in cui appunto il valore si irradia in tutti gli interstizi della realtà, ecco, allora si può dire che oggi il valore è completamente sganciato da qualunque anfratto della realtà, è libero di rifulgere nell'infinito di un nonsenso che spesso appare banale, che è un mondo alla rovescia, come dicevo. C'è un mondo in cui forse il filo d'Arianna non c'è più, ma in cui il filo d'Arianna potrebbe essere anche inutile, perché non c'è una logica, ci sono più tante esperienze che si sovrappongono, tante esperienze che lasciano il segno e che magari passano senza lasciare segni, ma che comunque sono espressioni di una realtà indubbiamente un po' confusa. Però. Sì, ecco, sicuramente diciamo che insomma, 20 anni dopo la caduta del muro di Berlino, certamente le contraddizioni tra produzione di beni e promessa di felicità, tra consumo e godimento, tra mercato globale e realizzazione individuale appaiono del tutto rovesciate e si rivelano in tutta la loro drammaticità, insomma, scoprendo una vita, un'esistenza quotidiana organizzata sempre più intorno alla simulazione di segni più che di valori, no? Di vere forme di un nuovo ordine che direi individuale, sociale e forse anche economico e statuale, dove appunto la simulazione si estende dal corpo all'anima. Allora, attraverso queste voci, che non hanno assolutamente una pretesa di organicità, tutt'altro, cercano proprio di seguire il modulo in cui poi questo nuovo stile di vita, perché poi tutte queste contraddizioni, queste deflagrazioni poi hanno degli effetti concreti sulla vita delle persone, che non sono ancora delle astrazioni ma che sono fatte anche di desideri, di aspirazioni, appunto di sogni, e che portano invece appunto in una situazione molto complessa. Ecco, complessità, abbiamo detto che è un po' anche un viaggio, ci sono questo viaggio dei capitoli, si parla dell'America, si parla dell'Iran, si parla dei russi, si parla di questo universo. E in questo viaggio dove sono le sorprese maggiori? Beh, le sorprese maggiori forse sono dove non si aspettano, nel senso che laddove si pensava che fossero perse delle speranze, invece le speranze si riaccendano. Potrei fare anche degli esempi, insomma, sicuramente il mito del denaro, che era uno dei miti classici dell'equivalenza universale in cui tutto poteva essere scambiato, sta lasciando per esempio, sempre più, insomma, spazio a esperienze diverse che in alcuni casi più felici si configurano sotto l'aspetto della gratuità o sotto l'aspetto del dono. Insomma, le grandi tematiche, visto che siamo in tema di economia, legate poi alla revisione di un modello di PIL, stanno lasciando con grandi difficoltà e con molte discussioni però strada ad altri tipi di parametri. La grande sorpresa poi forse sono le donne. Direi che se c'è un soggetto che alla fine, che all'inizio insomma di questo nuovo decennio, alla fine degli anni zero, sembra rappresentare l'icona di una nuova felicità, sono le 25-30enni asiatiche che scoprono, insomma, certo, di cui ci parlava anche Federico Fubini prima. E con Federico Fubini vorrei concludere con una battuta. Mariotti parlava appunto di post-capitalismo, di questo mito del denaro che sta un po' tramontando, però forse tu in questo viaggio, soprattutto per esempio negli Emirati Arabi e in Qatar, hai toccato con mano dove il mito del denaro è ancora molto forte. Federico Fubini. Beh, forse il mito del denaro sta tramontando un po' in Occidente, dove ci sentiamo in crisi. Sicuramente non sta tramontando in Asia, sicuramente non sta tramontando nei paesi del Golfo, dove denaro significa costruire nuove città utopiche anche a costo di schiavizzare il 90% della popolazione, perché serve comunque manodopera, e questa manodopera nei paesi del Golfo viene importata da tutto il resto dell'Asia a condizioni che noi giudicheremmo disumane, che lo sono sotto tutti i punti di vista. Indubbiamente, quindi un mondo di grandi disuguaglianze, di grandi problemi, in cui sicuramente c'è un passaggio più forte in alcuni paesi, più lento forse in altri, ma un mondo che sta cambiando e che bisogna capire come interpretare questo cambiamento. Questi due libri ci aiutano in questo viaggio. Abbiamo parlato con Federico Fubini del libro Destini di frontiera, da Vladivostok a Khartoum, un viaggio in 9 storie, edito dalla Terza, 180 pagine, 15 euro. Abbiamo parlato anche con Walter Mariotti del suo libro Un mondo alla rovescia, alfabeto del post-capitalismo, edito dal Sole 24 Ore, 250 pagine, gli chiede un investimento di 19 euro. E con questi due libri io ringrazio Fubini e Mariotti e vi do appuntamento a settimana prossima. Ringrazio anche Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione, e ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.